sulla potenza della radio vado molto molto bene, molto molto bene. E se non basta, ci accendiamo il drone, vai Luca. Ma questo drone è molto elica, c'ha? Cioè. Tre eliche, amore mio, tre ventole e un RM Italy LA800. Manda laterale da intorno ai 700 watt. Sono anche tutti, lo tengo sempre a 450-500. 27 non l'ho mai provato perché non me ne ha fatti nulla. Comunque è un bellissimo amplificatore, sintonia continua 0,30, 24 volts, c'è il suo alimentatore da 24 volts, cambia le bande automaticamente, non c'è bisogno di accordare niente, quello lo valvola invia ogni banda, devi accordare, devi fare, quello tu cambi banda, lui non sentire lei che scatta e va da solo. Vabbè, con gli accordatori automatici dai un colpo di portante si accorda da solo. Si conferma. Certo che sì, però io stazionario non ne ho, io lavoro senza accordatore, perlomeno. 40-80 sì, in 15-20 lavoro intorno a 1,3-1,4, ma come schiaccio fa boom, si raccorda da solo, mentre invece in 10, ecco 10, 40-80 non ho bisogno di accordatore perché le antenne sono talmente precise che non c'è bisogno di accordatore. Ma con un'antenna della 27 e un accordatore, cioè uno riesce a accordare anche altre frequenze o l'antenna nasce per quello e per ogni banda ci vuole la sua antenna? Tu ti rendi conto che una verticale lavora con i sottomultipli, quindi può anche lavorare ma non arriva a nessuna parte. Ma non che non sia un'antenna 5 bande verticale, allora sì, con l'antenna alla 27 non è che puoi andare in 40 metri e fare questo, l'antenna 27 la puoi usare per i 10 metri, massimo per i 20 metri, ma io ho tutte le antenne separate, io ho l'antenna monobanda per i 40 metri, poi ho l'antenna l'antenna 40-80, ok, poi c'ho monobanda per i 15, monobanda per i 20, e monobanda per i 10, e monobanda per i 6 metri, 50 mega. Io 50 ascoltavo, però non è che ascoltavo con la 95 e 50 ascoltavo benissimo, mi arrivava anche 95 di segnale. Sì, ascolti, ma mi rendo conto che c'è le radio separate. Insomma, non tanto. Sempre con queste radio andiamo là. In fondo non le posso usare neanche adesso, anche se sono arrivato alle 27, bisogna usare i baracchini omologati. Però non me ne ha fatto lunga perché le posso ottenere, quindi non è così, non è così grave la cosa, capite? Quindi mi venivano a fare certi controlli allucinanti. E le 2000 e le avevano buttate lì. Veramente? Sì. Vabbè. È rischiato, è rischiato, però è andata sempre bene. E vabbè. Ma se uno si comporta bene, non vuole importanza, non rompe le scatole, che sia una di una o che sia l'altra, secondo me, non è quello il fatto che uno si deve comportare come si deve, non rompere le scatole come fanno certi che hanno il baracchino per pulire la portante, per rompere le scatole dagli altri, quello non va bene. Già, già lo so, sono sempre stati rompibale, quindi l'importante non è buono io. Io schiacciavo e spegnevo la radio, sono sempre impresso Antonio Rivendica, non mi dimenticherò mai, non mi dimenticherò mai. Avevo rubato la radio, ammazza. Sempre me lo ricordo perché ce l'ho su WhatsApp, ogni tanto ci sentiamo. Ormai tanti mi devi sempre comprare la radio, mi dice. Ma deve dire quello che faceva il pesci vento. No, quello è Antonio, quello è Antonio Benelli. Ah, è vero, è vero. È vero. Veramente io l'ho sentito, ma non mi ricordo chi è. L'ho sentito modulando, eccetera, però non me lo ricordo chi è. Forse non lo conosco proprio. Antonio De Venti era Antonio Magia, tassista, no? Che aveva proprio la Renault 20 gialla e abitava in via Metta lì dove c'era Griscenico. Ah, ecco, sì, ho capito chi era. Vabbè, e comunque mi ricordo che lui era a macchina, acceso il baracchino e tu come modulato gli sei bruciato. E tu lo chiami Antonio, e non li pulia. Eravamo in radio, lui è partito a Piazza Castello, c'era il baracchino, e mi ha detto guarda c'ho che attendere la zona Doria a prendere un cliente. E mi ha detto vabbè, quando sei vicino sotto casa, perché lì dove era vicino all'edicola lui, no? E io ero più avanti. Ho detto quando sei sotto casa tu, c'erano amiche che scendono andiamo a prendere un caffè da Zia Maria, allora c'è Zia Maria lì in via Corraluzza, no? Però io avevo l'amplificatore attaccato, il TL922, c'avevo un minimo 700-800 watt. E dove si è fatto? Si è fermato sotto, no? Mi ha chiamato e mi ha detto, guarda amici sono qui sotto. E io volontariamente l'ho schiacciato, sto scendendo. Scendo e arriva la macchina dove si venia. Tu hai lasciato le genie, tu fiamo di bruciare dove c'è il cuore della radio. Era potenza, eravate troppo vicini. Sì, cosa ride poi con l'amplificatore? E questo è lo stesso, questo è prima di quello che c'ho, ma è una bestia lo stesso, anche questo PEP intorno ai 1100-1200 tira fuori. C'ha due valvole, non c'ha le 3530, c'ha le 872, ma sono grosso lo stesso, ma non l'ho usato pochissime volte, non mi interessa, non ho comprato questo, andava bene, e anche questo uso poco, uso solo quando c'è il pelato incasinato, non ti fanno entrare, allora no, io chiamo e tu non mi rispondi, perfetto, lo attacco, Delta Florida bravo, ehi, hai Delta Florida bravo, allora io intendo, sui giorni. Quello là consumava un casino, quello valvolare ti consumava un bel. Il valvolare, l'avevo fatto per poterlo usare, e trovato l'altro giorno, perché non lo potevo usare a casa, c'avevo 3 kW, allora mi ero attaccato a 6 kW dell'ascensore, se no lo potevo usare. E ma anche la ribatta che della volazione mi avevi detto, quando eri qui a Pascoli mi pare. Ehi, lo stesso lì avevo fatto, mamma mia, lì avevo avuto anche problemi con la mamma di Pierpaolo, poverino, di un erbe marimani, perché lui era in un canale, era un altro, c'era più che era attaccato e splatterava, tutto splatterava, e quindi ci avevamo un po' attaccato. sì, non lo usavo quasi più, perché già avevano iniziato i lavori qua, quindi ero sempre in cantiere, andavo tornando, guardavo, facenti, la molla, quindi lo usavo pochissimo. E vabbè, Luca, giusto per domanda, tu mi hai detto che ti interessa il movimento a terra, che cosa c'è? Una ditta, un'impresa di movimento a terra, camion, mi hai detto? No, in ambito di movimento a terra ho lavorato, finito il militare, quindi 91, 92, 93, alla Maglia Caterpillar, mentre ora lavoro in un'azienda di trasporti con cisterna, quindi da carburanti a rifiuti speciali a prodotti chimici. Ah, un bel lavoro, mamma mia, l'ho messo, e anche quello, e vabbè. E Gianni l'autista, pazzo, sì, ma lui non è autista, lui comanda gli autisti diversi. Capa, io faccio logistica. Ah, capito, quindi magazzino, organizzi praticamente, segui i trasporti, là. Io prendo gli ordini dai clienti che mi arrivano o sul cellulare o via mail, e poi c'ho il brogliaccio che oramai prima era cartaceo, adesso è tutto fatto a computer, e distribuisco i lavori ai vari autisti, e la sera prima di andare via li avviso, e quindi agganci, ci saranno da portare all'imbarco nei porti e da ritirare gli arrivi, o consegne nei distributori, o consegne nei rivenditori tipo Testoni per esempio, oppure lavoriamo molto con le centrali sia di Portovesme che di Fiumesanto. Anche tu, responsabilità mille, sì, i programmi fai, poi programma gli autisti, ho capito, anche quello, io invece no, io passavo la, vabbè, più o meno sapevo come era organizzato per il giorno dopo, no, passavo in ufficio, magari c'era qualcosa da fare in più, tutte le mattine a sorso, prendevo l'ordine di servizio e lo distribuivo, insomma la squadra c'era, erano 8, 4 e 4, capito? E quindi distribuivo il lavoro, ma andavo anche io, e non è che io guardavo loro, molte volte facevo più io che loro, comunque mi hanno sempre tenuto in ottime considerazioni, non ho mai avuto problemi, anzi abbiamo lavorato veramente tanto bene, perché con personale o ci sai fare o ti cazzeggia, ne ho, come ti stavo spiegando prima, io mi comportavo in una maniera tranquilla e serena, senza essere quei cani rognosi, capito? A volte, vai a fumare, vai, mio se ricordi, muoviti, quindi andavamo a fumare, uno già dice che alle 10, cazzo, oggi non fa la metà giù compreso, ma io vai, fai panini, lo vuoi, parla anche a me, e quindi c'era tutto questo giro, no? Perché lavorando e facendo, si fa di più, capito? Se tu non prendi il petto, ci lo sa, vai, stai fermo lì, muoviti, io, bum, è già è così, però quando sono tanti devi avere un metro tuo, ed è più facile per tanti abituarsi a una persona che una persona abituarsi a 50 caratteri diversi, perché non puoi modellarti, perché quello la vuole cotta, quella la vuole cruda, quello lo vuole in un certo modo. A me quello che mi ha sollevato molto è WhatsApp, perché prima dovevo dare il programma a voce ed era una vaccagliura, adesso invece la disposizione gliela do per iscritto con WhatsApp, e non può dire né di non aver capito né di non aver sentito l'orario, è tutto scritto, targhe, agganci, sganci, consegne, eccetera, orari di carico, eccetera, che quella parte di polemica l'abbiamo risolta, perché è scritto e quindi è in italiano, non puoi dire di non aver capito. Tanto se poco voi, lo so, è così, vabbè. Bene, signori, io vi ringrazio tantissimo per le due chiacchiere. Saluto Gianni, Antonio, se ancora in ascolto, chiunque fosse qua, sono 10. che Luca mi ha lontano perché sono già l'otto ma non quarto. Vado a vedere cosa vuole in pentola, ok? Un abbraccio a tutti e ci aggiorniamo domani. Ok, fratelli, vai Gianni. Quindi allora stiamo pensando anche io, dai, che te ci ho pensato a chiamarmi. Ciao, buona serata, buona cena quando la fate. Ciao Luca, ciao a tutti gli altri amici che sono in ascolto, ciao a tutti. Idem per me, fine delle trasmissioni, ci dedichiamo ai fornelli e a fare il pieno. Grazie della chiacchierata a tutti, buon proseguo di serata e ci sentiamo domani. Ciao, ciao Luca, ciao Antonio.